Credo che ognuno abbia il suo modo di star bene in questo mondo che c'è intossicato l'anima, e devi crederci per coltivare un sogno su questa terra spaventosamente arida. Io l'ho vista, sai, la vita degli illusi con le loro dosi di avidità e superbia, che per combatterli, ti giuro, basta poco, devi interdirli con un po' di gentilezza. Un'alluvione mi ha forgiato nel carattere, però il sorriso dei miei mi ha fatto crescere. Se qualche volta anche perso la testa, però l'amore mi ha cambiato l'esistenza. Quante cose fai che ti perdi in un attimo, quanti amici hai che se chiami rispondono, quanti sbagli fai prima di ammettere che hai torto, quanti gesti fai per cambiare in meglio il mondo. Libero, libero, libero, mi sento libero, canto di tutto quello che mi ha dato un brivido, e odio e ti amo e poi amo e ti odio. Finché ti sento nell'anima non c'è pericolo. Dicono che è un'altra ottica se resti in bilico, dicono che più si complica più il fatto è ciclico. Dicono, dicono, dicono parole in circolo, parole in circolo. Credo che ognuno abbia una strada da percorrere, ma può succedere che non ci sia un arrivo. E quanti piedi che si incroceranno andando, ma solo un paio avranno il tuo stesso cammino. Ne conosco gente che sta ancora in viaggio e non si è mai chiesta in fondo quale sia la meta. Sarà che forse dentro sono un po' remaggio e cerco anche in cielo una stella cometa. Una passione mi ha cambiato nella testa, ma sono un sognatore con i piedi a terra. Cerco di trarre da ogni storia un'esperienza e di sorridere battendo la tristezza. Quante cose fai che ti perdi in un attimo, quanti amici hai che se chiami rispondono, quanti sbagli fai prima di ammettere che hai torto, quanti gesti fai per cambiare in meglio il mondo. Libero, libero, libero, mi sento libero, canto di tutto quello che mi ha dato un brivido, e odio e ti amo, poi amo e ti odio. Finché ti sento nell'anima non c'è pericolo. Dicono che è un'altra ottica se resti in bilico, dicono che più si complica più fate ciclico. Dicono, dicono, dicono parole in circolo, parole in circolo. Che ti sento nell'anima non c'è pericolo. Dicono che è un'altra ottica se resti in bilico, dicono che più si complica più il fatto è ciclico. Dicono, dicono, dicono parole in circolo, parole in circolo. È libero, libero, libero, mi sento libero, canto di tutto quello che mi ha dato un brivido, e odio e ti amo, poi amo e ti odio. Finché ti sento nell'anima non c'è pericolo. Dicono che è un'altra ottica se resti in bilico, dicono che più si complica più il fatto è ciclico. Dicono, dicono, dicono parole in circolo, parole in circolo.